arriva la parte difficile, costruire un pacchetto di riforme che consenta all'Italia di sfruttare al meglio i fondi europei sui quali si è raggiunto l'accordo ieri e consenta di farlo rapidamente e decidere alla fin fine se prendere comunque i soldi del fondo salva stati oppure no, che però come sappiamo è uno snodo politico problematico di non poco conto. Dopo l'intesa di Bruxelles, ieri è stato il giorno delle reazioni, ovviamente positive dalla maggioranza e da un pezzo dell'opposizione, fatta eccezione per Matteo Salvini, apparso ieri un po' isolato nella critica. In tutto ciò il Covid non si arresta, non solo nel resto del mondo, con gli Stati Uniti che contano altre 1000 vittime in 24 ore, con il Brasile che ne conta 1400, con la recrudescenza in Spagna, con l'Austria dove da venerdì riparte l'obbligo di mascherina nei luoghi pubblici, ma anche in Italia dove, pur tra numeri confortanti, a fronte degli assembramenti da spiaggia e vita notturna, Lazio e Campania pensano a reintrodurre anche loro l'obbligo di proteggere il volto. Cos'altro? Beh, le speranze per Alex Zanardi dopo il drammatico incidente in handbike. Trasferito a Lecco, ora inizia la riabilitazione. In bocca al lupo. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le 6, 31 minuti e 20 secondi di questo mercoledì 22 luglio, in quest'ultima settimana per questa stagione di 24 Mattino, poi ci fermiamo venerdì e ritorniamo lunedì 31 agosto. Pronti con la nuova stagione e anche una nuova sigla, E qualche novità. A proposito, qualcuno chiede di chi è questo pezzo che stiamo facendo sentire questa mattina. Carmelo Lauricella, dall'altra parte del vetro, si arrabbia, dice: ma come? Ma sì, lo stesso ascoltatore o ascoltatrice che ci ha scritto dice: ma come si chiama la canzone? Mi sembra Eric Clapton, ma il titolo è Riding with the King, con B.B. King, tra l'altro. Mica spicci. C'è anche, dall'altra parte del vetro, c'è anche Miriam Lucchetti in assistenza in redazione insieme a Giorgio De Luca, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. E voi ovviamente 349-238-6666 per i vostri WhatsApp, SMS, WhatsApp audio, le vostre voci. Tra chi già dice: e dunque, a cosa sono serviti questi stati generali se dobbiamo elaborare un nuovo piano di riforme? Consultare tutte le parti. Comunque, tranquilli, il Presidente del Consiglio ha detto che arriva un'altra task force. Le voci della giornata di ieri. Iniziamo, direi, dal ministro dell'economia Gualtieri. È stato un negoziato molto duro, molto difficile, ma alla fine ha prevalso una posizione che non è tanto quella dell'Italia, ma quella della ragionevolezza e del diritto europeo. E sul piano di riforme dice: saremo tra i primi a presentarlo. Stiamo definendo un piano che sarà molto preciso e dettagliato, che vogliamo essere tra i primi a presentare già ad ottobre, in modo da poter partire subito con un grande piano per il rilancio dell'economia italiana. Ancora Gualtieri che si sofferma anche sull'aspetto politico, dice: il Presidente del Consiglio e il Governo ne escono rafforzati. È un risultato straordinario, naturalmente il Governo ne esce rafforzato e anche la leadership del Presidente del Consiglio Conte, che ha giocato un ruolo decisivo in questa partita. il ministro dello sviluppo economico, Patuanelli. Io credo che da questa mattina ci sia un po' meno unione e un po' più comunità europea, che è un principio sacrosanto di come è nata la comunità europea. Io vedo veramente che grazie al Presidente del Consiglio, grazie alla posizione che ha ottenuto in questi quattro difficili giorni di trattativa, rinasce un po' quel salto culturale, quel passaggio culturale importante che l'Europa fa verso all'essere una comunità vera. E sentiamo anche, direi, il ministro degli affari europei, che poi era là, era presente alle trattative, Enzo Amendola, via. Noi ci metteremo al lavoro subito, perché già a fine settembre dovremo presentare i piani alla Commissione, e credo che sarà uno sforzo, io mi auguro, non solo del governo ma anche dell'opposizione, perché queste sono risorse che andranno per il nostro paese, non solo per i progetti che abbiamo già messo in campo come governo. E visto che Amendola cita l'opposizione, veniamo proprio qua, perché se c'è un punto politico, oltre a quello sottolineato da Gualtieri, un certo rafforzamento del governo e anche della figura di Giuseppe Conte, a prescindere da come poi si possa valutare questo accordo, perché alcuni dicono, guardate, la realtà è questa, che Macron e Merkel si sono accordati e quindi è stato in realtà l'asse franco-tedesco a far sì che si arrivasse a questo accordo. Ed è un accordo per salvare l'Italia e per evitare di fatto che si arrivasse a cascata a rischi per il resto dell'Europa. Però al di là di tutto ciò, è chiaro che si rafforza il governo, si rafforza Giuseppe Conte, e si spacca l'opposizione anche sul giudizio di come sono andate le cose. Ci sono posizioni come quella di Silvio Berlusconi, che si dice soddisfatto, un compromesso positivo lo definisce. Si tratta naturalmente di un compromesso, ma è un compromesso positivo che ha superato le resistenze di alcuni paesi del nord e che toglie argomenti ai nemici dell'Europa. E la butta là in quello che molti vogliono leggere come un riferimento a Matteo Salvini. Non sappiamo se ci siano anche elementi di politica interna e di politica del centrodestra, però se la prende un po' con i sovranisti. Certamente questo difficile compromesso deve far riflettere sul futuro, cioè sui pericoli per l'Europa del condizionamento che i partiti sovranisti esercitano sulla politica di diversi paesi europei. È così. E questi sono gli accenti più positivi, quelli da parte dell'opposizione, con un Silvio Berlusconi che torna a dire che bisogna usare i soldi del MES, una Giorgia Meloni che tutto sommato nota che non è andata male. A me pare che l'Italia, per carità, esca in piedi, però rispetto al trionfalismo che vedo da parte della maggioranza sarei un po' più cauta. I problemi ne rimangono. Intanto diminuiscono le risorse a fondo perduto e aumentano i prestiti. I soldi non arriveranno fino al 2021 inoltrato e noi ne abbiamo bisogno ora. Per spendere quei soldi ci sarà comunque bisogno del parere dell'olandese di turno, e questo può significare un commissariamento della nostra politica economica. Quindi, positivo, però valutiamone i rischi, dice Giorgia Meloni stringendo. Scrive un ascoltatore dalla Slovenia, credo, ho sentito stamane sul GR sloveno che il governo, o forse dal Friuli, non lo so, che il governo ha indetto già per oggi una riunione per impostare il progetto su come impiegare questo denaro in arrivo dall'Europa. La metto là. Ci fosse in ascolto qualcuno dall'esecutivo italiano, lo sa. E invece, come vi dicevo, Salvini un po' isolato in quest'ambito, perché è l'unico a muovere una critica molto, molto dura. Vediamo di spiegare di quanti soldi si parla, in quale arco temporale, per fare che cosa, E poi, dopo aver illustrato di che cosa stiamo parlando, spieghiamo come Lega di cosa ci occuperemo e preoccuperemo per evitare una fregatura che si vede grossa come una casa in fondo al tunnel di questa brillante operazione. Scrive Pietro: se Conte ha vinto, dov'è la sconfitta di Rutte del premier olandese? Non c'è una sconfitta di Rutte in realtà. Guardate, io diffido dalle interpretazioni così nette. Quello di ieri è sicuramente un buon risultato per l'Europa ed è sicuramente un risultato storico per l'Europa. Che sia vittoria per un paese, sconfitta per un altro, è un accordo di compromesso e come in tutti i compromessi ci sono pezzi di vittoria e pezzi di sconfitta. Dunque l'Olanda ottiene una parte di quello che voleva, non tutto quello che voleva. L'Italia ottiene una parte di quello che voleva, non tutto quello che voleva. È molto semplice, si chiama compromesso esattamente per questo, perché si trova un accordo ed è un punto d'incontro tra varie esigenze. Poi ci sono molti dubbi su questo accordo, ovviamente, a partire per esempio dal fatto che si sia deciso di saltare a piè pari o lasciare solamente ad un accenno tutta la questione del rispetto dello Stato di diritto. Era una questione alla quale teneva molto l'Ungheria che non fosse contenuto, ossia per avere i fondi devi rispettare lo Stato di diritto. Polonia e Ungheria a questo punto erano a rischio, avrebbero potuto non ricevere i fondi e dunque questa parte è stata completamente annacquata e quindi togliendo un elemento politico fondamentale e fondante secondo alcuni, anzi secondo tutti dell'Europa. Questo è. Nicola dice: sento un Salvini molto pacato, quasi non abbia argomentazioni forti da contrapporre, forse quindi è un buon accordo. Nicola chiaramente è, insomma, evidentemente contrario alla Lega, contrario a Salvini, però anche questa può essere una lettura. Vi dicevo le questioni Covid, così entriamo sul tema che vogliamo approfondire un po' di più questa mattina, che è quello della scuola. Questioni Covid, i dati ve li ho forniti prima, l'avete sentiti anche in GR24, 1000 vittime in 24 ore negli Stati Uniti, in Brasile 1400, in Spagna una recrudescenza che preoccupa, l'Austria nella quale riparte l'obbligo di mascherina, mentre nel Lazio in Campania si sta pensando all'obbligo di mascherina, perché dice per esempio Vincenzo De Luca: vedo troppe violazioni degli obblighi. Nel Lazio si valuta la possibilità di rimettere di nuovo l'obbligo delle mascherine all'aperto. È un'ipotesi che valuta anche lei? Ma se c'è una moltiplicazione dei contagi diventerà inevitabile. Io mi auguro sinceramente di no. L'importante, lo dico a quelli della sua generazione, è che quando vi incontrate la sera state uno addosso all'altro. Quello è il momento nel quale bisogna indossare la mascherina. Quando si passeggia in luoghi aperti, tranquilli, si può stare senza mascherina. Ma se stanno insieme 200 persone, bisogna indossare la mascherina. Così De Luca. Come tornare in sicurezza a scuola? Ed eccoci, e questo è il punto che vogliamo approfondire adesso, sul quale vogliamo tornare adesso, perché è il grande tema, la grande perplessità è il grande lavoro che in questo momento stanno facendo i dirigenti scolastici, sul quale si stanno preoccupando e interrogando i docenti, le famiglie e gli stessi studenti. Come torneremo? Faranno tornare a scuola i ragazzini e i bambini facendoli entrare alle 7 del mattino, facendo i turni, iniziando alle 7 del mattino per fare un tempo più lungo, e poi le famiglie come si organizzano? E ancora, questa maledetta storia dei banchi singoli, quelli che si vorrebbero con le rotelle, le avete viste le foto tutti quanti, quelli con le rotelle sotto, quasi da ufficio, quasi da conferenza, dove già si immaginano gare di autoscontro e bambini che girano per i corridoi come schegge impazzite o come milanesi sul monopattino, per dare un'idea. Cristina Tagliabue, buongiorno e bentornata. Eccoci qua, coordinamento nazionale del Coordinamento Nazionale Comitato Priorità alla Scuola. Buongiorno Cristina. Buongiorno eccoci. A voi, buongiorno, bentrovati. Eccoci qua. Allora, qua mi pare che il livello di preoccupazione, soprattutto tra i dirigenti scolastici con i quali voi siete costantemente in contatto, stia crescendo, perché qua bisogna organizzare il rientro e non si sa esattamente come farlo. Sì, infatti, come dire, le tematiche sono tante e diverse ovviamente. Noi che rappresentiamo gli studenti, i genitori e anche gli insegnanti, vediamo una prospettiva appunto composita, fatta di tante necessità che in questo momento hanno dei punti di domanda enormi di fronte. Come giustamente diceva prima, i genitori da una parte che devono organizzare il proprio settembre con degli orari, come dire, forse nuovi, forse diversi per la gestione dei ragazzi e delle lettere che sono state ricevute dai genitori a Milano, già protocollate da alcuni istituti superiori e delle scuole medie, e a Roma invece già pubblicate sui siti delle scuole, in cui già si parla appunto di scaglionamento. Questa è una cosa che sembra molto molto chiara. Dall'altro i dirigenti scolastici che devono organizzare appunto metro per metro le aule, all'inizio sembrava dovessero essere loro ad approvvigionarsi delle sedie, quindi del materiale, dell'arredo scolastico. Poi si è capito invece che adesso entro il 30 luglio devono comunicare attraverso un software che peraltro ieri si è bloccato, del Ministero. Bene. Quante sedie Bene. Sono necessarie e quindi di quale tipologia, ovviamente, perché all'inizio sembrava fossero tutti girelli in monoposto, poi si è capito che in realtà di questi 3 milioni di sedie, a cui dice che c'è fabbisogno, 1,5 milioni saranno di una tipologia, sì. Per bambini più piccoli, immagino, quindi anche per la postura, speriamo qualcosa che non inviti a girare tutto il corpo, diciamo, su una specie di banchetto che in realtà non è un banco, perché sì. È un, come dire, una parte esterna della sedia. E poi invece 1,5 milioni di questi girelli che a noi come priorità della girelli, scuola. I girelli, la definizione girelli è stupenda, perché è proprio quello, no? Perché per chi se li ricorda e per i figli l'ha utilizzato, quell'affare che serve a imparare a camminare, con il quale poi diventano pericolosissimi a un certo punto. Eh sì, molto pericolosi, proprio perché in realtà purtroppo quel caso che c'è stato il 20 ottobre scorso del bambino che è cascato dalle scale stava proprio su una sedia a rotelle di quel tipo lì. Di quel tipo lì, bene. Sì, quindi bisogna riattrezzare le scuole. Il traffico. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Mattino. Forse non l'abbiamo chiarito abbastanza bene, però pensavo che fosse intuitiva la cosa. L'ascoltatore che ci dice: ma gli studenti sono sempre quelli, perché devo comprare più sedie e più banchi semplicemente perché devono stare su banchi singoli a causa delle regole post-Covid, e quindi, dato che gran parte dei banchi sono in realtà dei banchi doppi, per tenere il numero maggiore di persone all'interno della classe servono i banchi singoli per non farli stare vicini. Molto semplicemente questo, è una questione logistica. A tutto questo aggiungo io un altro elemento, che è quello dei test sierologici, ossia entro l'inizio delle elezioni e quindi supponiamo, Cristina Tagliabue, dato che quest'anno si prevede il rientro il 14 settembre in gran parte delle scuole e però il primo settembre per tutta la parte che riguarda i corsi di recupero, soprattutto alle superiori e via dicendo, ebbene i professori, il personale non docente dovrebbero aver fatto tutti il test sierologico. Però mi pare aver capito che siamo all'anno zero in questo momento. Sì, la nostra proposta come priorità alla scuola era quella di proporre la classica infermeria che c'era una volta quando, non so lei Spezia, ma andavo a scuola, c'era l'infermeria. Un po' si faceva anche finta di stare male, alle volte si rifugiava dall'infermiere di classe, sì. Anzi all'istituto. Poi dopo anche per saltare un'ora scomoda talvolta, esatto. Sì, certo. Poteva capitare, però comunque il presidio sanitario, adesso a parte gli scherzi a scuola, in questo momento noi lo riteniamo importantissimo, una proposta che abbiamo fatto e quella forse nella quale crediamo di più dal punto di vista appunto della questione sanitaria, perché misurazione della temperatura delle famiglie certamente sacrosanta prima di entrare in classe, però comunque gli studenti devono avere la possibilità di capire come stanno e anche le loro famiglie, e i docenti non si devono accollare insieme al personale ATA, cioè ai bidelli, questo tipo di responsabilità, cioè capire come sta lo studente. E dall'altra parte, i test sierologici, certo, bisognerebbe poterli fare a tutti prima del rientro. Ovviamente sono costosi e l'organizzazione... Sì, ma soprattutto il tema è questo, che sono su base volontaria. Si intende farli nella prima quindicina di agosto, dove periodo nel quale ovviamente gli insegnanti e il personale non docente sono in ferie, naturalmente, quindi sarà ben difficile poi che si riesca ad avere il numero di test sierologici che si richiede. Poi magari ce la si fa, non perdiamo la speranza su questo fronte. Oh, a proposito dei banchi singoli e di quei banchi da quelli con le rotelle, c'è anche una questione che ha a che fare con i costi ed è quella sulla quale si sono appuntate le polemiche. Il costo per l'acquisto di ciascuna sedia sarebbe di 427 euro, stando tra l'altro ai calcoli che ha fatto un deputato di Azione, Matteo Ricchetti, il quale su questo tema ha presentato un'interrogazione. Si parla complessivamente, se non vado errato, di 3 miliardi e passa di euro, Cristina Tagliabue, più o meno, no? Sì, Congi, diciamo, noi abbiamo fatto una richiesta ad alcuni onorevoli e Ricchetti poi questa richiesta l'ha fatta propria e l'ha presentata come interrogazione. Avevamo fatto in realtà su tutto diciamo il corpo studenti, secondo i dati del Sole 24 Ore erano circa 8 milioni e quindi queste erano le cifre. In realtà poi abbiamo visto che le cifre date da Arcuri sono circa 3 milioni, quindi in realtà la spesa è meno della metà. Sì. Comunque, siamo comunque su delle questo cifre però con molto banchi alte. Singoli, questo però con banchi singoli normali. Prima di tutto andrà fatta una ricognizione, appunto, e capire, forse Arcuri l'ha fatta fare, su quante, perché qualche ascoltatore ci scrive, per esempio, nella mia scuola i banchi sono già singoli e quindi da quel punto di vista non c'è problema. Vedremo come andranno le cose. Dunque, un tema. Però aspetta una cosa: sì. I banchi, in effetti, presentati quelli che subito, diciamo il 26 maggio in conferenza stampa con Conte, sono stati presentati in diretta televisiva, proprio quel modello di banchi lì è molto molto costoso, sì, cioè, è difficile trovare su internet un banco così di plastica e così costoso. Quant'è che costa? Mi pare un 300-400 euro, sì, più o meno. Soldi, insomma, che neanche una sedia di Fabio Novembre, voglio dire, la triennale. Ci chiede un ascoltatore, le comprano poltrona fra uno? Non credo, però è buona questa. Grazie Cristina Tagliabue del Coordinamento Nazionale Comitato Priorità alla Scuola. Prima di chiudere, una voce la sentiamo sulla situazione di Alex Zanardi e Valtere Giovannini, direttore generale dell'ospedale di Siena, dove era ricoverato. Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità anche delle condizioni cliniche generali e la stessa stabilità del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale. Alex Zanardi è stato quindi trasferito in questa giornata in un ospedale di specificamente deputato alla neuroriabilitazione di particolari condizioni come quelle di cui ha sofferto l'atleta Zanardi. In bocca al lupo a Zanardi. Fatemi chiudere con una nota di tipo diverso, va. Prosegue la polemica su Imagine di John Lennon. Prosegue incredibilmente dopo le parole di Susanna Ceccardi, la candidata alla presidenza della Toscana per la Lega, la quale aveva detto è una canzone di ispirazione marxista-leninista. Interviene anche quella che sarà la leader del centrodestra secondo Solange, che le ha letto la mano. Giuro, l'ho visto stamattina su Novella 2000, non chiedetemi perché, mi è capitato sotto gli occhi. Comunque, Giorgia Meloni su Imagine. Beh, non è una canzone il cui testo mi appassiona, insomma, dice no, che non ci siano le religioni, che non ci siano le nazioni, che non ci siano... cioè, è l'inno della, no, della, dell'omologazione mondialista. L'omologazione mondialista. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa e con tutte le notizie, le analisi ovviamente sul vertice europeo, ma non solo quello.